2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. La puntata del 15 giugno 2013, benvenuti o bentornati a 2024. Oggi c'è Peter Bescape che si occupa della parte tecnica. Sono le 15:33 minuti. Il nostro numero verde, se volete chiamarci in diretta, è 800240024. Più tardi parleremo di imparare e insegnare online, come la tecnologia cambia la nostra vita anche in questo ambito. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci oltre che attraverso il nostro numero verde anche attraverso gli SMS 349-238-6666 oppure utilizzando Twitter e anche la nostra pagina Facebook. Allora, iniziamo con una buona notizia. Ogni tanto ci vuole. Allora, il presidente del Consiglio Enrico Letta si è preso la responsabilità di dare un impulso all'agenda digitale, alla cosiddetta agenda digitale. Ricordiamo che si tratta di un complesso progetto che potremmo dire parte forse dalla diffusione di internet, ma poi prosegue attraverso i servizi, attraverso una serie di cambiamenti dell'organizzazione anche del nostro paese. Pensate che nella agenda digitale europea ci sono 101 punti e quindi uno se li può anche andare a leggere per capire di cosa stiamo parlando. Si tratta proprio di cambiare anche la cultura di un paese. Allora, dicevo, si è preso la responsabilità, questa settimana ha detto voglio dare massimo impulso all'agenda digitale europea. Per questo motivo è stato chiamato, coinvolto alla guida di questo progetto Francesco Caio, che attualmente si occupa di razzi per lo spazio, è amministratore delegato di Avio per la parte spaziale, anche perché la parte aeronautica della produzione di motori è stata venduta a General Electric, ma verrà coinvolto in questo progetto come coordinatore, perché poi bisogna mettere d'accordo ministeri, bisogna mettere d'accordo la presidenza del Consiglio dei Ministri e l'agenzia per l'Italia digitale, di cui si è parlato a lungo, che deve ancora trovare una propria forma. Avremo, speriamo presto, Francesco Caio ai nostri microfoni, nel nostro studio, anche collegato telefonicamente. Giustamente Caio ci ha detto beh, aspettiamo qualche settimana per capire un po' di cose, poi potremo parlare anche di questo nuovo ruolo. Questa settimana Apple ha presentato alcune novità molto attese, in modo particolare tutto ruota attorno al nuovo sistema operativo iOS, è il sistema operativo di Apple, la prossima generazione che arriverà in autunno, è già arrivata, è già disponibile per gli sviluppatori, ma per tutti gli altri arriverà nel prossimo autunno, si chiama iOS 7, quindi la settima versione, la settima edizione. Per capire che cosa dice il mercato siamo collegati con Carolina Milanesi, che è Vice President di Gartner, si occupa in tutto il mondo a livello globale di consumer electronics, di elettronica di consumo. Bentornata a 2024. È sempre un piacere. Apple da quasi un anno non presentava novità, c'è chi ha fatto i conti, 230 giorni senza annunciare nulla di nuovo, molti si attendevano e ritenevano che per Apple fosse necessario fare degli annunci importanti. Da parte vostra, da parte di Gartner, qual è il giudizio, positivo o negativo? Dipende da che cosa le persone che seguivano si aspettavano in termini di vedere o un sistema operativo che era totalmente diverso da quello che avevamo prima, che io non mi aspettavo perché Apple non fa costo di cose di questo genere, oppure di avere dei prodotti, altra cosa che non ci aspettavamo con grande anticipazione. Siamo stati un po' sorpresi invece da questo sneak preview che hanno fatto del Mac Pro, che è una cosa diversa da Apple. Se seguivi con attenzione però l'evento, secondo me ci sono state delle cose molto interessanti che sono scaturite da questo keynote di lunedì, no? Prima di tutto il fatto che sono riusciti a lanciare un sistema operativo che è rinfrescato, che è giovanile, che riesce a bilanciare bene quello che è la novità e quindi darmi qualcosa come utente dal punto di vista di software che è diverso, ma nello stesso tempo che non mi richiede di leggermi un manuale di istruzioni. La seconda cosa è che come compagnia mi sembrava una compagnia diversa, mi sembrava un'azienda che era sul palcoscenico con umorismo, con molta verve, con molta voglia di provare al mercato che sono ancora qui, che hanno ancora l'innovazione, al punto di arrivare a quel commento molto forte di Phil Schiller, per dire che c'è un futuro. E poi il lato finale, che non solo ne hanno parlato e sono usciti dicendo sì, possiamo ancora innovare, ma la continua concentrazione di quello che fanno intorno all'ecosistema, quindi non è il prodotto singolo, non è il servizio singolo, è l'unione di prodotti, di servizi, di qualità, di disegno, di design, che portano a creare un livello di partecipazione dell'utente nell'ecosistema che altri, e specialmente Android, ancora non ha. Molti dei nostri ascoltatori sanno che in questa giornata, nella giornata di lunedì, Apple ha presentato anche iTunes Radio, una sorta di radio in streaming, in realtà una serie di canali radio infiniti e personalizzabili da tutti gli utenti di iTunes, più sul modello di Pandora, che è una radio online che insegue, che capisce i nostri gusti che noi non abbiamo in Italia, più su quel modello che sul modello Spotify che invece conosciamo, o Deezer che è un altro competitor forte di Spotify, Radio eccetera eccetera, poi ci sono tantissime offerte in questo campo. Ora, vedendo e di fronte a questo annuncio, molti dicono in questo caso Apple sta rincorrendo altri invece di innovare. Che cosa ne pensi? Due cose, allora specificatamente sulla parte di iTunes Radio e di Pandora, direi che Apple ha fatto questa mossa non per far competizione a Pandora o Spotify o chi altri servizi fanno nei vari paesi, ma per continuare a creare un'opportunità di revenue nel lato di musica come downloads, non come streaming. Quindi usano questo servizio in modo che come utente tu puoi sentire la musica prima di comprarla, e se guardi a come è lanciata, hanno fatto in maniera molto semplice che tu dal sentire la canzone passi al comprare la canzone. Quindi questo è un modo per generare più revenue da un punto di vista di download. E in generale, invece, sul commento che alcuni hanno fatto legato ad iOS 7, che non sembra così innovativa, ma hanno preso molte delle cose che sono già sul mercato, ma questo è quello che fa Apple. Apple prende delle cose che sono sul mercato, dei segmenti, guardate solo allo smartphone, no? Sono arrivate sul mercato quando già tutti gli altri erano sul mercato e hanno preso una cosa che esisteva e l'hanno cambiata e l'hanno resa più ricca, più interessante e più coinvolgente. E questo secondo me è quello che hanno fatto con alcune delle features che sono già presenti su altre piattaforme, ma che non legano così tanto ancora il consumatore a quelle piattaforme. Potremmo dire che in mancanza di vera innovazione, cioè quella che cambia veramente il paradigma, così come quando venne lanciato l'iPhone oppure l'iPad, perché effettivamente nessuno degli altri concorrenti sta lanciando prodotti fortemente discontinui rispetto a quello che conosciamo, Apple rappresenta ancora un'innovazione, proprio perché gli altri non sono capaci di fare qualcosa che lascia bocca aperta. Rappresenta un'innovazione nel modo in cui usano quello che lanciano per legarti ancora di più a loro e al loro ecosistema. Questo secondo me è ancora quello che lascia Apple davanti a tutto il resto del mercato. E se guardi al portafoglio di prodotti che hanno, oggi Apple è ancora l'unico, dal punto di vista di venditore, non di ecosistema, è l'unico venditore che riesce a essere di successo nella parte smartphone, nella parte tablet e nella parte PC, e in più la parte di iCloud. E quindi riuscire a fare questo come venditore singolo, non trovo nessun altro nel mercato che lo stia facendo. La prossima settimana, dopo aver seguito la conferenza per gli sviluppatori di Google, dopo quella di Apple, è il turno di Microsoft, il che conferma, ed è un trend molto interessante, che gli Stati Uniti, oltre che essere il centro dell'evoluzione è riduttivo di telefonia mobile, di tutti gli ecosistemi che ci accompagnano in mobilità, lo stanno diventando sempre di più, o sbaglio? No, è sicuramente così, non a caso mi sono trasferita qui un anno fa. Sembra proprio essere la culla di quella che è l'unione tra telefonia, lato PC e lato internet, quindi hai questi mondi che si fondono e hai proprio una culla di tecnologia, di start-up, di effervescenza che c'è qui in Silicon Valley, senz'altro. Carolina, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e a presto. A presto. C'è un'altra cosa molto interessante che è stata presentata, iOS 7 Car, cioè automobile. Ci sono già accordi con alcuni produttori tipo la Ferrari, Honda, Mercedes, Chevrolet, Infiniti, Kia, Volvo. Parleremo presto di questo settore perché l'evoluzione dell'infotainment all'interno delle automobili attraverso gli smartphone e i sistemi operativi degli smartphone è una evoluzione estremamente interessante che arriverà nei prossimi anni. Sono le 15:44 minuti, questa è 2024, siete su Radio 24, riprendiamo tra un minuto. 2024. Come diciamo spesso, come abbiamo detto più volte, siamo ancora al punto di alcuni anni fa per la diffusione delle reti in fibra ottica. Anche questa settimana un rapporto della Commissione Europea dice che per quanto riguarda la banda larga tradizionale, quella via ADSL, siamo messi abbastanza bene perché la copertura è del 98,4% delle utenze domestiche. Poi bisogna vedere anche la qualità di questi collegamenti. Ma la Commissione dice, per quanto riguarda le reti di ultima generazione, quelle che consentono connessioni almeno di 30 megabit al secondo, sono disponibili per il 14% delle famiglie italiane contro una media europea del quasi 54%. Allora, questo è uno dei punti dell'agenda digitale, cioè diffondere la banda ultralarga, condizione necessaria per poi far partire i servizi che vanno costruiti sulla rete. Allora, ci sono vari progetti per quanto riguarda la distribuzione della fibra ottica, alcuni progetti locali, cioè il progetto di MetroWeb e quello di Telecom assieme a FastWeb, mentre MetroWeb ha deciso di portare fibra direttamente nelle case, progetto molto più lungimirante ma anche più costoso. Naturalmente Telecom e FastWeb arrivano con la fibra solo agli armadi stradali e poi da lì si usa il vecchio doppino di rame. Allora, tutto ciò si inserisce nel grande tema anche dello scorporo della rete di Telecom Italia. Naturalmente lo scenario è molto complesso, molto complicato, anche molti addetti ai lavori non sanno come andrà a finire. Sapete che Telecom ha deciso di fare confluire la rete di accesso al telefono e internet in una società che avrà altri soci, vedremo quali saranno questi soci. Questa società dovrà proseguire assieme a questi altri soci, ad altri operatori, la posa di fibra ottica. Ma questo richiederà lavori di scavo lungo le strade italiane. Per superare alcune difficoltà burocratico-interpretative, diciamo così, il governo dovrebbe emanare a settimane, speriamo, visto che è già 7-8 mesi che si attende, un decreto ad hoc, come ha spiegato questa settimana il viceministro allo sviluppo economico Antonio Catricalà. Sono allo studio molti regolamenti, però uno in particolare ci tengo a dire è in dirittura d'arrivo, è un decreto che noi chiamiamo decreto scavi o delle mini trincee, sul quale ci stiamo impegnando in modo particolare a superare alcune difficoltà che abbiamo trovato nel governo, all'interno del governo, ma per problemi di assicurare il massimo livello di sicurezza sul manto stradale. In realtà questo regolamento ci consente di abbattere del 30% i costi degli scavi, ci consente di fare degli scavi molto ridotti, di non più di 15 cm di larghezza per non più di 40 cm di profondità per la posa in opera della fibra ottica, ci consente di superare alcune difficoltà burocratiche. Che cosa sono queste tecnologie, queste mini trincee? Allora, ne abbiamo parlato con Paolo Trombetti, che è il presidente di un'associazione che ha un nome inglese, Italian Association Trenchless Technology, comunque tutte quelle tecnologie che prevedono scavi poco invasivi per posare fibra ottica. Il termine Trenchless Technology raggruppa una serie di tecnologie che permettono la posa, riutilizzo, risanamento delle infrastrutture esistenti delle varie reti, delle utilities, telecomunicazioni, fogne, gas e acqua. Tra le tecnologie che principalmente si stanno spingendo nel settore delle TLC per consentire la posa di reti a larga banda, a larghissima banda, abbiamo le cosiddette perforazioni orizzontali guidate e le mini trincee. La caratteristica delle tecnologie trenchless è quella di avere sensibili riduzioni dei costi socioambientali, parliamo di un 80% in meno rispetto a uno scavo tradizionale e di una riduzione anche degli incidenti sui cantieri quantizzata in una percentuale intorno al 67%. Noi siamo abituati, non tutti, però molte persone che abitano in città, ma anche in molte province, negli anni passati, diciamo all'inizio degli anni 2000, hanno osservato la posa delle prime fibre ottiche e in quel caso, diciamo nel caso tradizionale, si tratta di uno scavo fatto con una ruspa, quindi con un forte impatto, naturalmente anche costi. Di diverso che cosa c'è in questo caso anche in termini di dimensioni, poi soprattutto si usano macchine particolari per fare questi piccoli scavi e la posa della fibra ottica? Le macchine sono dei mini scavatori che hanno montano una fresa che consente di effettuare un intervento minimo largo 5 cm e profondo fino a 30-40 massimo di profondità, all'interno del quale poi vengono posati dei mini tubi in grado di ospitare mini cavi per fibra ottica. Quindi abbiamo miniaturizzato nel corso degli anni rispetto a quello che diceva lei, oggi la cittadina era abituata a vedere grandi scavi, pose di grandi tubi, si è miniaturizzato il tutto e quindi si è adeguata anche la tecnologia di scavo. Senta, perché si usano le strade, perché si posano fibre lungo le strade? Più facile o c'è proprio un motivo diverso? No, diciamo che si segue la strada, poi la strada diciamo in realtà gli operatori delle reti del sottosuolo non vogliono utilizzare le strade, se fossero possibili infrastrutture esistenti si preferisce fare degli infilaggi in quelle esistenti tra anche di altri operatori o anche di altre utilities, se pensiamo a pose di fibre ottiche nelle reti del gas piuttosto che nelle reti fognarie o dei tubi della pubblica illuminazione, si interviene nella strada lì proprio se non è possibile appunto utilizzare altri sistemi. Il percorso naturalmente è quello delle strade perché è attraverso le strade che più facilmente e in tempi più rapidi si raggiungono i vari comuni per la rete di backbone piuttosto che in ambito urbano per raggiungere le unità immobiliari che devono essere collegate con la fibra ottica. Senta, c'era proprio bisogno addirittura di un decreto con relativo regolamento per fare tutto ciò, perché effettivamente mi risulta che non so quante amministrazioni locali vedano gli scavi e la posa della fibra ottica non di buon occhio. Io se fossi un amministratore locale sarei molto contento se un'azienda venisse nel mio comune a mettere fibra ottica, non mi pare che sia così, quindi era proprio necessario questo decreto. Sì, perché purtroppo non c'è ancora una normativa chiara a riguardo. Esistono, sono state pubblicate negli anni delle norme che hanno cercato di dare impulso all'impiego di queste tecnologie per facilitare l'infrastrutturazione delle reti in fibra ottica, però il legislatore ha lasciato così degli aspetti, delle ombre che sono interpretabili. Ecco la necessità quindi di un decreto che attraverso cui emanare un regolamento che chiarisca in maniera univoca come utilizzare queste tecnologie, soprattutto per quanto riguarda i ripristini. È vero altresì. Per ripristino lei dice il rifacimento del manto stradale, l'asfalto. Il rifacimento del manto stradale, esatto. Sì. Mentre la tecnologia è della posa della mini trincea, la possibilità di andare in deroga al codice della strada che prevede un metro di estradosso, è più o meno stata redatta nell'ambito della normazione, non c'è nulla sul ripristino. Allora anche oggi che senso ha fare un taglio di 5 cm di larghezza e poi sentirsi chiedere dall'amministratore locale il rifacimento di mezza carreggiata comunque. Diciamo, è un po' un controsenso, insomma, perché alla fine si deve ritornare sul cantiere e quindi si crea di nuovo disagio alla circolazione e alle attività commerciali e alla cittadinanza in generale. Peraltro ci sono alcune di queste tecnologie di mini trincea prevedono un riempimento particolare che non avrebbe neanche necessità del ripristino, perché presenta una caratteristica tale per cui questa malta speciale, ha le stesse caratteristiche, se non migliori, di un asfalto tradizionale. Senta, di quanto si riducono i costi e i tempi di posa della fibra ottica con queste tecnologie? Allora, guardi, i tempi, consideri che oggi normalmente un lavoro di scavo a cielo aperto viene autorizzato intorno, diciamo, vengono autorizzati i cantieri che non possono superare, per questioni appunto di disagi e quant'altro, i 30-40 metri per cantiere. Con una mini trincea... Al giorno? No, 30-40 metri ci si mette circa una settimana. In ambito urbano con gli scavi tradizionali. In condizioni ottimali, ma diciamo in valore medio, con una mini trincea si può fare un impianto finito 150 metri, 200 metri al giorno. Costi? I costi sono naturalmente molto più bassi. Uno dei motivi per cui si spinge a utilizzare queste tecnologie è perché nelle analisi fatte a livello europeo si è visto che nell'area posa della fibra ottica i lavori civili rappresentano il 68% dei costi, e quindi si è cercato, ma non solo in Italia, in Francia, in Germania e in altri paesi si sta puntando a queste tecnologie perché sono quelle che consentono di abbattere questo 68%. Ma si dimezzano o no? Cioè, ci dia un'idea. Sì, si riducono anche più della metà. Beh, naturalmente ne riparleremo perché è importante la diffusione di internet principalmente tramite l'infrastruttura. Poi c'è tutto un problema culturale di alfabetizzazione e di questo riparleremo. Riprendiamo dopo le notizie di GR24 il nostro numero verde 80024 0024 tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, le 16:06, questa è Radio 24, potete chiamarci in diretta al nostro numero verde 80024 0024. In questa seconda parte del nostro programma parleremo di come la tecnologia ci cambia la vita mentre insegniamo, se siamo capaci di insegnare, oppure mentre impariamo. E non parleremo di scuola, anzi, tutt'altro, parleremo di quello che sta accadendo attorno alla scuola, ma anche nel mondo delle aziende, nel mondo dell'università, perché si impara o si dovrebbe imparare, si dovrebbe tenere aggiornati i lavoratori, i dipendenti delle aziende un po' per tutta la vita. Quindi stiamo parlando di un campo di applicazione della tecnologia molto molto più ampio. Allora, vi presento i nostri ospiti in questa seconda parte. Marco De Rossi, che ha fondato Oil Project. Marco, benvenuto a 2024. Ciao a tutti. Allora, che cosa significa Oil Project e cosa c'entra l'olio? Oil in inglese è il petrolio. Che cos'è Oil Project? È un nome infelice perché avevamo 14 anni quando l'abbiamo concepito. Ammetti che è infelice il nome. È molto infelice, ci fa subito pensare ad aziende di petrolio e di energia, invece c'entra poco perché Oil Project è un sito in cui chiunque a qualsiasi ora del giorno, sia che sia a Catanzaro, a Padova o dove vuole, può collegarsi e gratuitamente seguire dei corsi sulle materie però delle scuole superiori, quindi da Petrarca, Shakespeare, le derivate, chimica, di tutto in modo assolutamente gratuito. Cosa vuol dire corso? Un corso è un insieme di testi, video ed esercizi. Quindi mi leggo vita e opera di un autore, poi magari mi leggo un testo su Mattia Pascal, poi c'è un esercizio su quel primo percorso di Pirandello e continuo così per dalle 18 alle 20 lezioni di solito. Perfetto, poi spieghiamo meglio come funziona, chi può insegnare e come si può imparare. Io ho detto non ci occuperemo di scuola e c'è un motivo, perché voi non volete sostituirvi alla scuola, giusto? Volete forse affiancarvi? Assolutamente, il project adesso viene usato nel pomeriggio soprattutto, perché come sappiamo le scuole italiane sono abbastanza restia a determinate sperimentazioni per ora. Anzi, il Project S è usato da sessantenni, settantenni, gente di ogni età, quindi senz'altro usare la parola scuola, intendendo quelle quattro mura e un tetto, è davvero, davvero limitante. È un modo massivo per erogare conoscenza, cultura, informazione, chiunque può partecipare. Tu quanti anni hai? 23. 23, hai iniziato questo progetto, dicevi, a 14 anni. Sì, anche se OIL poi è diventata un'azienda e quindi ho iniziato a non dormire la notte soltanto un anno e mezzo fa. Ok. Claudio Erba, benvenuto 2024. Ciao, ciao. Tu sei uno dei fondatori e anche, come si dice in termine tecnico, il CEO, quindi l'amministratore delegato, di Docebo o Docebo? No, Docebo. Docebo è una parola latina che significa, esatto, insegnerò. Però sicuramente, visto che voi vi rivolgete a tutto il mondo, sappi, ma lo sai già, che in molti paesi vi chiamano Docebo. Allora, Docebo, e addirittura abbiamo scoperto, adesso magari il pubblico cinese mi insulterà sulla pronuncia, che Docebo vuol dire più studi, più soldi guadagnerai in futuro. Se siete stati fortunati. Sì, un caso. Che cos'è Docebo? Docebo è un'azienda che si occupa di formazione a distanza per le aziende. Dunque, quando gli studenti finiscono di lavorare con OIL Project e prima ancora andare in pensione, perché Marco ha detto che poi riutilizzano ancora OIL Project, non smettono però di studiare, perché in azienda si continuano a fare tutti i corsi di formazione. Dunque, fino a poco tempo fa non esisteva la possibilità di utilizzare internet per fare training online, perdonami l'inglesismo, formazione a distanza. Invece adesso è possibile farlo con tutto quello che sono i vantaggi legati al non muoversi sempre dalla sede per poter fare qualsiasi tipo di formazione, ma soprattutto poterlo fare in momenti consoni alla formazione, dunque non lasciando il lavoro o la postazione di lavoro in momenti affollati, non staccando molto personale dalla formazione, dalla mansione, dall'attività. Sì, sì, dal lavoro, ecco. Certo. Vi faccio subito una domanda, poi torniamo sulle vostre piattaforme, su come funzionano, che tecnologie utilizzate. Se costano, perché voi siete un'azienda che propone un prodotto, invece Marco ha detto tutto gratuito, poi vediamo anche come queste aziende stanno in piedi, però voi vi immaginate, inizio da Claudio poi con Marco, che nel futuro il modo di insegnare, futuro che può essere anche fra pochi anni, il modo di insegnare, di imparare sia solo online, sia solo virtuale, quindi i corsi fisici non ci saranno più? Esagerato questo? Guarda, a me piace guardare le persone negli occhi, stringere le mani. Dunque non penso che un'attività di formazione digitale sia totalmente sostitutiva di quello che è il training in aula. Io parlo della realtà aziendale, soprattutto perché esistono dei contesti di formazione, ad esempio una negoziazione di vendita, dove l'interazione umana con le mille variabili e sfaccettature non sono ancora tecnologicamente simulabili, anche se esistono quei simulatori d'apprendimento che non sono una narrazione della lezione, ma dei giochi interattivi che cercano di portare quanto più vicino alla realtà una formazione a distanza. Però si prestano molto l'e-learning, la formazione a distanza in azienda ad alcuni settori, ad esempio tutta la compliance normativa legata alla sicurezza sul lavoro, tutto quello che è l'aggiornamento del prodotto, e qui abbiamo tantissime case study molto simpatiche e divertenti. Su alcune cose invece la fisicità, il contatto umano per me non è ancora sostituibile e forse non lo sarà mai. Cioè, alla fine le cose virtuose sono sempre i mix di tecnologie e di umanità, di persone, sì, di modo di essere. Marco, sei d'accordo? Concordo assolutamente con Claudio, e il dire la scuola del futuro sarà solo online è soltanto una scusa che usa chi poi non ha voglia di sperimentare, vuole rimanere in un mondo completamente fisico, per non fare invece un esperimento che deve coinvolgere, come diceva Claudio, un mix di entrambe le tecnologie. Quindi bisogna avere il coraggio di sperimentare e valorizzare quello che ognuna delle due cose può dare, e questo può portare anche dei risparmi, inutile nasconderli. Senti, OIL Project come si sostiene? Cioè qual è il modello di business? Perché Claudio di Docebo ci ha detto: noi siamo un'azienda, vendiamo un prodotto, poi ci facciamo spiegare come funziona per bene, però è facilmente comprensibile. Nel vostro caso invece? Il modello di business è la pubblicità, e continua, con i tassi di crescita che abbiamo adesso dovremmo andare a costi uguali ricavi, per non usare parole in inglese, intorno a novembre. Ah, quindi già imminente. Sì, se continua così sta andando molto bene, sì. Quindi il prossimo anno dovrebbe essere un anno, cioè no, già quest'anno, diciamo, dovrebbe sì, essere sì, un infatti, buon in queste buon settimane ho sorriso. Ci sarà sicuramente un problema controllo di che tipo di pubblicità viene erogata, perché se la vostra è una piattaforma che in qualche modo insegna, non so se è un tema di dibattito questo. Non ancora. Però immagino che possa essere un tema. Di rifiutare gli inserzionisti, esatto, perché vogliono spiegare la loro versione di Shakespeare. Anche. Spero succeda, sarebbe molto divertente. Sarebbe molto divertente. Riscrivere la storia con sponsor di certi corsi sulla guerra fredda. Sì, sì, oppure visto che su internet, diciamo, ci si attacca a piattaforme che erogano pubblicità e a volte noi non sappiamo bene che tipo di pubblicità ci arriva, anche banalmente la pubblicità di un altro concorrente, forse quella è facilmente evitabile. Sì, in Italia concorrenti diretti del project, per fortuna o per sfortuna, non ce ne sono. Certo, è capitato di avere pubblicità di partiti politici e le abbiamo bloccate perché non è esattamente piacevole studiare con di fianco determinati visi, però... Bene, ci fermiamo per un minuto. Questo è 2024, vi ricordo che potete contattarci, potete interagire con noi sia utilizzando Twitter, cercate 2024 o Enrico Paglierini, sia con la nostra pagina Facebook, oppure, cosa che ci piace molto di più, chiamarci in diretta. Il nostro numero verde è 800240024, SMS 349-238-6666. 2024. Riprendiamo questa puntata. C'è un trend molto interessante, che è quello dell'utilizzo delle tecnologie per erogare informazioni, intese come informazioni sia in ambito lavorativo ma anche informazioni che sono legate alle materie che si studiano a scuola, quindi l'insegnamento online e anche naturalmente l'apprendimento. Marco De Rossi, che ha fondato Oil Project, quanti siete all'interno di Oil Project? 9. 9. L'hai fondato tu da solo o c'era qualcuno con te a 14 anni? Ha avuto tante fasi, chi l'ha fondato come allora adesso non c'è più, sono altre persone che lavorano con me da qualche anno. Senti, chi può insegnare? Chiunque può insegnare sul project, chiunque può proporre i suoi contenuti, ma questi contenuti sono oggetto di uno studio e verifica della qualità da parte di una redazione. In generale alcuni dei contenuti sono prodotti dalla nostra redazione interna, i contenuti più facili, quindi le vite e opere degli autori, le parafrasi. Poi ci sono collaboratori esterni con cui lavoriamo che producono altri contenuti. Poi ci sono contenuti che sono pagati questi. Sì, poi c'è la community che li invia, invece lo fa per condividere appunto le proprie conoscenze, perché chiunque trova alcune ore per condividere quelle che sono le sue maggiori competenze. E infine ci sono contenuti che erano online, abbiamo fatto accordi per poterli riproporre alla nostra utenza. Quindi se io sono esperto di aeroplani, posso propormi per fare un corso sugli aeroplani. Esatto, quindi su alcune materie ci sono sia lezioni di magari professori universitari molto noti per quel determinato autore, sia contenuti di ventenni che però noi abbiamo analizzato e abbiamo ritenuto non avessero errore. Uno potrebbe, ascoltando, dice vabbè, ma come fa uno di 22 anni, senza offesa, ma dare un giudizio magari su una lezione di matematica? A dare un giudizio sono persone che hanno appunto studiato quel, non sono di certo io, no, io sono faccio quello faccio lo startupper, ecco, faccio altre cose. Nel gruppo di lavoro. Ma detto questo, su certe materie sono sicuro che molti ventenni su Photoshop possono giudicare determinate lezioni più di, insomma, l'età di certo non fa la differenza, ecco. Senti, che cosa usate? Perché qua stiamo parlando di lezioni video, giusto? Io vado su Oil Project, vedo dei video. Mi iscrivo a dei corsi, vedo video, testi, leggo dei testi e poi faccio degli esercizi a risposte chiuse. Che tipo di piattaforma utilizzate? Usiamo tutte soluzioni open source ed è una piattaforma che abbiamo creato noi partendo da una piattaforma che si chiama Drupal, che forse qualcuno conosce. Comunque l'abbiamo creata noi. Quindi, e poi usiamo tecnologie cloud per erogare i video, abbastanza soluzioni standard, ecco. Ok, ma perché diciamo l'erogazione del video sia in termini di archiviazione, ma anche in termini di banda, è una cosa abbastanza pesante. Sì, è una cosa che fino a qualche anno fa era critica, adesso è abbastanza risolto il problema. Prima succedeva che quando avevamo i server in casa magari saltava la luce, poi Pirandello scompariva, ora invece Pirandello, per la vostra felicità, rimane. A rimanere. Volevo chiedere ad entrambi un aspetto importante. Allora, abbiamo detto, entrambi condividete il fatto che comunque la fisicità in alcuni momenti è importante, ok? Quindi vedersi in faccia, quindi anche la lezione fisica è importante. In questi casi la qualità video, la qualità audio di chi ascolta, oggi ci sono dei sistemi di videoconferenze in alta definizione bellissimi che ti fanno effettivamente sembrare nella sala riunioni, e in questo caso è un aspetto determinante o più, non più di tanto? Guarda, magari faccio arrabbiare i puristi del video, che cosa, ma noi abbiamo notato che la cosa che rende accattivante un corso non è la qualità del video, soprattutto perché un corso non è soltanto video, ma è l'interazione, l'immersività che questo corso dà. Dunque, più tu ti trovi calato all'interno dell'argomento che stai studiando, che sia Pirandello o che sia il corso sull'ultima moto che sta per uscire e che tu poi devi vendere o riparare in un contesto aziendale, più a questo punto la formazione a distanza è efficace. Dunque tu devi essere proiettato all'interno del corso, e la parte interattiva è una parte che rende, stimola di più l'utente. Una delle teorie è che un video non deve durare più di 7 minuti di narrato costante, perché sennò, come dire, l'effetto collasso della testa sulla tastiera è immediato. Cioè, ok. Voi erogate, faccio un esempio di come funziona Docebo. Hai fatto l'esempio della motocicletta prima. Uh-huh. Faccio un esempio di come funziona, di che tipo di contenuti ci sono, chi produce questi contenuti. Allora, diciamo che intanto la formazione a distanza, l'e-learning, funziona su aziende di medie e grandi dimensioni, perché tu puoi spalmare l'investimento su più dipendenti o su più personale, oppure su aziende di piccole dimensioni che hanno una rete vendita di partner e di distributori nel mondo ampia. Dunque, più persone ci sono da formare, più ovviamente è facile. Ovviamente, se è un'azienda di 4 dipendenti, attualmente l'e-learning probabilmente non è ancora un, perlomeno dal mio punto di vista di amministratore legato stratega, ancora pronta, anche se poi Docebo ha 20% dei clienti che comprano piani da 5. Dunque piani da 5 user, dunque probabilmente sono io che sono troppo conservativo, il mercato è più avanti a me. Vabbè, questo è interessante, spiegaci, facci un po' un esempio. Allora, facciamo finta che un'azienda italiana che produce moto, e ne produce una all'anno, debba formare, facciamo, gli store di marca in i tutto negozi il mondo. Dove vendono le motociclette. Okay. Facciamo che questa azienda vende in 90 paesi nel mondo, vende a Dubai, vende a Tokyo, vende a Shanghai, vende a San Francisco, vende dove vuole. Questo vendere. Non è un esempio di fantasia, è un esempio. Quasi no. Esatto. Dunque, cosa succede? Succede che o fai corsi in aula e dunque prendi un docente e lo mandi in tutte le città dove tu hai degli store, e dunque inizi 6 mesi prima a formare la moto e la moto non è ancora pronta, oppure li fai volare tutti nella sede principale e li formi. Considera che a livello di, come dire, impatto sia di costi che ambientale, la trasferta è quella che impatta di più. Nella formazione aziendale il 50% dei costi è costi di trasferta e logistica, il 50% è investito nella formazione. Certo. Con l'e-learning arriviamo al 90% di investimento sul contenuto formativo. Certo. Quindi tu dici, io faccio una lezione da un unico luogo, faccio questi video, magari tutti video di 5 minuti, un giorno parlo del manubrio, un giorno parlo delle ruote, un giorno parlo del serbatoio, eccetera, eccetera. E in mezzo tra questi corsi metto delle interazioni, del tipo fammi vedere dov'è il manubrio, questo modello che manubrio ha, quanto è più bello rispetto al manubrio della concorrenza. Chiarissimo, chiarissimo. Tutte queste cose. Senti, una cosa del genere, i contenuti chi li produce? I contenuti possono essere prodotti dall'azienda stessa, possono essere prodotti da centri di produzione multimediale esterni, Docebo ha anche una unit che fa questo, oppure se sono contenuti standard, dunque facciamo un corso su come vendere al telefono, per esempio, esistono sul mercato già corsi a catalogo e non ha senso andarle a realizzare ex novo. Ali, poi quanto costa un corso del genere a catalogo? Non so, $10 utenti su volumi? Dunque immaginate che devo formare 20 receptionist che poi vanno a fare telemarketing o su come rispondere in modo simpatico al telefono. Con pochi dollari riesco a farlo, ma soprattutto lo faccio da un giorno all'altro. Cioè oggi prendo la decisione, domani attivo Docebo andando su www.docebo.com, te la provi 14 giorni, importi il corso e sei pronto per andare. Dunque Zotto, non via. Devi farti fare offerte. Non devi Quanto farmi... costa questa cosa? Giusto per capire. A Docebo parte da 29 dollari per 5 utenti fino a salire poi a piani più strutturati. 29 dollari? Dollari mese. Ah, perfetto, perfetto. Ecco, tu ci hai citato il dollaro perché il vostro mercato è mondiale. Allora, noi fatturavamo praticamente il 100% in Italia fino all'anno scorso, leader sì. italiani, eccetera, eccetera, brutta parola leader però, alla fine. No. L'anno scorso abbiamo fatto un round venture capital abbastanza importante per trasformarci in un prodotto cloud che ci consentisse di vendere in tutto il mondo, e da ottobre abbiamo lanciato il prodotto in tutto il mondo e ad adesso vendiamo in 43 paesi nel mondo, l'ultimo ordine oggi in Turchia, paesi simpatici Trinidad e Tobago, per assurdo, tanto California e Stati Uniti. Sì, invece tornando a Oil Project di Marco De Rossi, poi allarghiamo il quadro anche al mondo per capire cosa sta succedendo nel mondo e anche ad un progetto al quale si aggregherà o si sta aggregando l'università, la Sapienza, un progetto internazionale. Marco, nel vostro caso la vostra lingua è l'italiano e voi erogate corsi in Italia solo, giusto? Sì, siamo partiti dalle scuole superiori perché il pubblico è più ampio ed è più concentrato su meno materie, quindi l'utilizzo tipico è il ragazzo che o è assente la mattina, o è a scuola ma sta dormendo, o è a scuola ma sta guardando un'amica lì vicino, oppure magari ha davanti un docente che insomma è inutile prenderci in giro, talvolta insomma la dinamica dei supplenti e dei percorsi è abbastanza infelice, come è successo a me, perché poi Oil nasce abbastanza da un'esigenza concreta del sottoscritto. E allora torno a casa il pomeriggio, apro, stavamo parlando prima di Pirandello, apro il corso di Pirandello che ho qui davanti e prima leggo un testo introduttivo sulla vita e opere, poi vedo un video sull'umorismo e sulla letteratura. Il video aiuta perché vedo gli estratti di testi, le evidenziazioni, vedo schemi riassuntivi, poi faccio una piccola verifica a risposte chiuse, non capisce se sono di Pirandello ma mi suggerisce cosa andare a ripassare, un video su Mattia Pascal, un altro esercizio, novelle per un anno, la patente e via così. Alla fine ho appunto ho risposto anche degli esercizi e posso rivedere tutto questo quante volte voglio, tutto gratuitamente, e sicuramente ne so qualcosa di più. Quanti utenti usano questo? Esatto, quanti utenti? Allora, quest'anno abbiamo chiuso, appunto le persone che hanno visto il project sono di più, chi però ha studiato sopra è appunto circa 1 milione di persone, di queste delle scuole superiori sono circa 690.000. Gli studenti delle superiori in Italia sono 1 milione di persone diverse. Sì. Pazzesco. Cioè è già un buon numero considerando. Sì, sì, sì, stiamo crescendo il 30% mese. Cioè considerando questa settimana fetta. L'Unione Europea ha pubblicato dei dati che dicono, come dire, sono dati che noi ripetiamo, non dico tutti i mesi, ma quasi, che dicono che grosso modo il 53% degli italiani si collega ad internet per almeno una volta al mese. Che vuol dire che se poi vai a vedere quelli che usano assiduamente internet siamo ancora a percentuali molto basse. Quindi se tu mi dici che 1 milione di persone in Italia hanno utilizzato Oil Project, mi sembra che sia un numero assolutamente molto positivo. Sicuramente di quei 30 milioni di italiani su internet una grossa fetta è tra i giovani, quindi, se facessi corsi per un altro target forse sarebbe più difficile. Nel vostro caso la lingua italiana è un vantaggio competitivo. Sì, perché nessuno è entrato in quello che viene chiamato il mercato dei corsi massivi gratuiti online, perché gli editori hanno giustamente altri interessi, perché hanno modelli di business molto diversi, costi diversi, e l'editoria scolastica è un mercato che continua a essere molto interessante, molto rigidamente indirizzato e continuano in quella direzione. Il media non ha competenze particolari su queste questioni, lo potrebbe fare ma non ha ancora fatto, e il MIUR ahimè è il ministero dell'istruzione non si è ancora mosso. Tra l'altro è interessante guardare i risultati di Oil, ma secondo me è ancora più interessante è vedere quello che abbiamo fatto rispetto alle risorse che avevamo. Nell'Italia che sogno, il ministero ne fa 1000 di quei project in competizione tra di loro emergere quelli che davvero meritano di più, perché noi, il nostro budget sono davvero limitati, ecco. Tipo, così lo diciamo, ho il project, appunto, quest'anno ha raggiunto 1 milione di persone, in totale nell'ultimo anno e mezzo ha avuto un budget di poche centinaia di migliaia di euro, pochissime. Sì. Meno di 500.000? Sì. Questo è molto interessante, perché va detto, ma immagino che l'abbiate detto, nelle opportune sedi, stiamo parlando di una cosa che parte da open source. Quindi la piattaforma di base non costa praticamente poco, diciamo, nulla. L'abbiamo personalizzata in modo ingente. Certo. Tutti i contenuti sono sotto Creative Commons, quindi chiunque li può riproporre sul suo blog, sul suo sito, se non ha finalità commerciali. Spieghiamo in 30 secondi che cos'è Creative Commons. Prendi il mio contenuto, fanne quello che vuoi, dove vuoi, basta che dici chi l'ha fatto e non ci lucri sopra, sì, nel nostro caso. È un tipo di licenza. È una licenza sotto cui rilasciare contenuti. Sì. Bene, le 16:30 minuti, questo è 2024, stiamo parlando di una serie di progetti, ma dai progetti poi si capisce come sta cambiando anche il modo di insegnare e imparare grazie ad internet. Questo è uno dei vantaggi, uno degli utilizzi che può essere fatto grazie alla rete internet, e quando si dice molti italiani non hanno ancora capito che cosa ci si può fare con internet ed è per questo che non si collegano. Ad esempio, questo è un esempio molto, molto efficace. Dicevo, il nostro numero verde per chiamarci per le vostre domande, anche se è tutto molto semplice, quindi magari uno non ha molte domande, comunque 800 24 00 24, se volete usare gli sms 349 238 6666. Poi leggiamo alcuni messaggi, potete utilizzare anche la nostra pagina Facebook o anche Twitter, chiocciolina e underscore Paglierini, oppure l'account di 2024. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, stanno succedendo molte cose, sono accadute molto prima in altri paesi, però come abbiamo detto poco fa, da 6 anni, giusto Marco? Da 6 anni esiste Oil Project, anzi no, da 8 anni. Sì, è un'azienda da 2 invece. L'azienda vera e propria, sì. Insomma, però diciamo che è da molto tempo che esiste il progetto. Senti, nel mondo voi vi siete ispirati a qualcosa che è successo nel mondo oppure no? Proprio nel 2004, lo stesso anno in cui siamo nati noi, Salman Khan, un ragazzo americano di origini indiane, Bangladesh anzi, ha iniziato a creare con una tavoletta grafica dei video per aiutare la sua nipotina Nadia a superare delle prove di geometria, una nipotina che stava dall'altra parte degli States, quindi tecnologia fondamentale per superare barriere fisiche fondamentalmente. Cioè gli faceva praticamente delle lezioni di ripetizione. Lo zio che ti fa le lezioni di ripetizione. Lei l'ha ringraziato molto, era talmente contento che ha solleticato il suo ego, il suo lavoro, e Salman Khan ha fatto un lavoro incredibile. Da allora ad oggi ha creato quasi 4.000 lezioni di suo pugno su un insieme molto diversificato di materie, è davvero un individuo incredibile. È un genio assolutamente. Ha studiato ad Harvard e all'MIT e nel 2009 ha lasciato il fondo di investimenti in cui lavorava per decidere di aiutare l'umanità, notare questa strana coincidenza, e apre Khan Academy grazie al sostegno di Bill e Melinda Foundation e di Google.org, la fondazione che sta dietro a Google. Sì. E ha un modello di business quindi molto diverso, perché loro vivono di no profit, donazioni, non hanno né pubblicità né come docebo un importo da pagare, ecco. Sarebbe molto interessante. Khan Academy, il contatore di lezioni erogate gratuitamente per avere un po' di volumi su come sta cambiando il mondo, è a quota 260 milioni. Pazzesco, 200. Khan è scritto K-H-A-N. Khan Academy, quindi sì. Se uno capisce bene l'inglese può sicuramente utilizzare questa piattaforma. Un nostro ascoltatore ci chiede, poi sentiamo anche Vinicio che ci telefona da Firenze, prima un sms, ci chiede: ma è possibile proporre anche degli argomenti da imparare? Cioè io vorrei sapere cose su, che ne so, gli aeroplani, e dico: perché non fate un corso sugli aeroplani? Certo, poi però bisogna trovare chi lo tiene. In Italia c'è Federica della Federico II, che è l'unica tra le 90 università italiane che condivide le sue lezioni, andiamone orgogliosi. E poi la Sapienza sta per sbarcare su Coursera, che è una piattaforma internazionale che unisce università, dietro la quale ci sono nomi del calibro di Stanford, Princeton, esatto, e Brown University. Ed è con noi, infatti, a proposito di Coursera, il professor Maurizio Lenzerini. Benvenuto a 2024, professore. Buonasera, grazie per essere con noi. Lascio in attesa un minuto perché prima vorrei sentire la voce di Vinicio che ci telefona da Firenze. Buongiorno Vinicio, benvenuto. Buongiorno. Prego, l'ascoltiamo. Ma io mi occupo di formazione e sono rimasto felicemente colpito da questo pezzetto di trasmissione che ho sentito, anche perché sono entrato in macchina, era già iniziato, sto lavorando e quindi ho sentito a pezzi, però credo molto poi la puoi riascoltare in podcast. Sì, lo so, sicuramente lo farò. Credo molto nella formazione, mi occupo di formazione più che altro di vendita, mentre in anni passati lo facevo per un sistema di vendita meccanico e di competenze, ultimamente ci sto mettendo la psicologia e tutto cambia. Vedo che questi ragazzi sono capaci di trasmettere l'emozione, l'enfasi, questo mi interessa molto, quindi andrò a vedere cosa stanno facendo di preciso, però son molto felice del fatto che online si possa comunque ricreare qualcosa, i venditori hanno bisogno, questo è chiaro. Vinicio, la ringraziamo per il contributo, che è un ottimo contributo. Io dico sempre, la trasmissione si arricchisce anche di quello che possono dirci gli ascoltatori, e molto spesso, io sono un grande sostenitore dei nostri ascoltatori, perché molto spesso i nostri ascoltatori portano un contributo molto molto interessante, anche solo di conforto di quello che stiamo dicendo, o capita anche di critica. Professor Lenzerini, che cos'è Coursera e soprattutto poi in che cosa consiste questo progetto collegato al fatto che voi state lanciandolo anche in Italia? Dunque, Coursera è di fatto un'azienda, una start-up dell'Università di Stanford, che ha iniziato 2 anni fa a erogare questi corsi online, open e massive. Questi aggettivi dicono open perché sono aperti a tutti e sono gratis, online appunto perché sono fruiti attraverso internet, massive perché ci si aspetta un grandissimo numero di iscritti dell'ordine anche di centinaia di migliaia. E Coursera è un'azienda che ha di fatto iniziato una piattaforma e poi ha fatto accordi con università di tutto il mondo per erogare corsi insegnati da professori esperti delle varie materie. Quindi la Sapienza in realtà è un partner di Coursera, ha fatto un accordo per erogare per ora 3 corsi in questa piattaforma. Quindi potremmo dire che, se capisco bene, simile a OIL Project, però sì, si tratta di un progetto universitario, quindi con tutte le caratteristiche di corsi universitari, anche di controllo della qualità delle lezioni, senza nulla togliere OIL Project. Beh, la cosa fondamentale di Coursera è sì, tanto sono corsi a livello universitario, ma sostanzialmente sono proprio veri e propri corsi che rilasciano anche degli attestati, quindi con esami. Io non conosco a grandi linee il project, conosco Khan Academy, ecco, lì non c'è l'enfasi di un'erogazione vera e propria di corsi autocontenuti che non solo quindi sono costituiti da video lezioni, ma anche esercizi ed esami. Quindi alla fine di ogni corso in Coursera, alla fine ma anche durante lo svolgimento del corso, ci sono dei veri e propri esami che lo studente può prendere. Ora, alla fine del corso sostanzialmente per il momento lo studente ha un attestato di superamento dell'esame, e il valore del quale può dipendere, qui c'è tutto un dibattito aperto e anche non sono ancora chiarissimi gli scenari formali, però l'idea è quella di un vero e proprio corso universitario che alla fine del quale lo studente può superare un esame, Quindi ecco, sono corsi a livello universitario, questo è il punto fondamentale che forse differenzia o il project da Corsera. Sì, sì, sì, molto chiaro. Sentiamo Stefano che ci telefona da Perugia. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno. L'ascoltiamo. Buongiorno, io mi chiamo Stefano e lavoro a Perugia e sto quotidianamente nelle scuole. Anche io mi occupo di formazione. L'incontro è molto interessante, solo ecco, volevo avere un approccio un po' critico, spero comunque costruttivo. Volentieri, sì, sì. Perché ecco, io girando nelle scuole italiane, che poi rimangono ad oggi credo l'unico vero luogo di formazione, soprattutto per la massa, noto che ancora c'è uno scollamento tra quelle che sono le capacità dei docenti di applicare effettivamente una didattica sul digitale, rispetto poi a tutta una serie di servizi che conosciamo tutti, insomma gli addetti ai lavori, che però ancora sono un po' lontani dal modo di operare dei docenti, anche vista l'età media dei docenti, perché tra l'altro l'Italia sconta anche qualche ritardo rispetto ad altri paesi europei dovuti a vari fattori che adesso non starò qui ad elencare. Però ecco, il succo mio del discorso è soprattutto questo: io capisco l'entusiasmo e anzi è piacevole vedere che dei ragazzi insomma si applicano in maniera così, però ecco, vorrei anche riportare un po' il discorso sull'attendibilità delle fonti, nel senso che quando a scuola va insegnata la grammatica italiana è giusto che si faccia riferimento a dei materiali che siano esatti. Sì, sì, certo. Perché poi di materiale, certo, online. E un altro elemento secondo me da valutare, perché ultimamente sto girando nelle scuole e vedo che laddove hanno cercato di sostituire tu cur il cartaceo con il digitale, abbiamo assistito a dei flop, parlo ecco di Generazione Web a Milano piuttosto che di vari progetti partiti dal Ministero, che poi hanno un po' ecco scontato i ritardi in termini di difficoltà di fruire, difficoltà di scaricare, collegamenti internet lenti. Ho sentito parlare prima di fibre ottiche, sarei interessata a sapere i tempi, i modi, eccetera. Ecco, tutto questo per dire che l'approccio è giusto, sicuramente alle spalle serve una struttura che comunque sappia guidare le scuole sui contenuti. Chiarissimo. Parlare di editoria scolastica, gli editori scolastici, che se ne dica, perché poi il mercato dei libri scolastici in Italia è pari a quello delle uova di Pasqua, che insomma è che tutto dire, rispetto all'editoria più generalista, dove ha visto basta fare il libro di Totti o della Littizzetto, che con tutto il rispetto per entrambi gli autori, però insomma è lì che c'è il business certo. maggiore. Stefano, grazie per essere intervenuto, insomma, il quadro è piuttosto chiaro, l'attendibilità è un elemento fondamentale. Vorrei risentire nuovamente Marco De Rossi, poi magari chiediamo anche al professor Lenzerini. Marco. La qualità va senz'altro verificata e sono assolutamente ragione d'accordo con Stefano sul tema della formazione dei formatori. Non possiamo riempire le scuole di tecnologia, di LIM, levagne elettroniche, spesso addirittura non collegate a internet, il paradosso nel 2013 di avere dei computer senza connessione a internet, e aspettarci che le scuole usino questa tecnologia in modo intelligente senza che gli insegnanti abbiano alcuna idea di cosa serve. Sulla qualità mi torneresti a dire quello che mi hai detto poco fa, cioè noi facciamo la nostra parte. Noi facciamo la nostra parte, assolutamente. Però effettivamente, professor Lenzerini, non c'è un po' il rischio che se si moltiplicano queste piattaforme ci sia un poco controllo della qualità? O è come per Wikipedia, che questo rischio poi in realtà, visto il grande numero di utenti e visto il grande numero di utenti che segnalano se c'è un contenuto che non è preciso, non lo è più un rischio? Ma allora, il rischio c'è, le risposte a queste domande è inutile negarlo, ancora non ci sono, nel senso che è tutto un movimento, almeno io parlo dei massive online open courses, è un movimento ancora da verificare, almeno a livello universitario. Cioè stiamo imparando tutti. No, sinceramente non fisserei l'attenzione tanto su subito mettersi in difesa, io credo che ci siano delle potenzialità enormi. Io conosco più Khan Academy, ma probabilmente la stessa cosa vale però il project che sicuramente adesso andrò a vedere, ma ci sono delle lezioni assolutamente strepitose, di una bellezza, fatte con pochi mezzi, ma il mezzo principale di un docente, lo sanno tutti, è la passione, l'inventiva e la competenza. Sì, assolutamente. E quindi ci sono delle lezioni meravigliose. E quindi diciamo, in linea di principio non fisserei l'attenzione subito su questo aspetto difensivo. Andiamo a fare le cose, vediamo, probabilmente la qualità vince, dobbiamo essere positivi. rispetto a noi, a come, ovviamente io poi se parlo come docente universitario che si occupa dell'impegno della sapienza in questa cosa, ovviamente le cose cambiano. Io vado come università pubblica, quindi la qualità, diciamo, dovrebbe essere già assicurata per il fatto che l'università italiana è ovviamente gestita e controllata con criteri rigorosi. Noi siamo un'università ovviamente assolutamente prestigiosa e cerchiamo di, quando andiamo su Coursera a fare le prime proposte per questi corsi, ovviamente scegliamo addirittura personaggi, professori, argomenti di qualità eccelsa. Quindi su questo sul fatto della qualità, diciamo, l'università, in particolare la Sapienza, ovviamente è molto sensibile. In generale, appunto, non mi concentrerei tanto su questo problema. Quando sento parlare di didattica ancora al liceo, alle scuole superiori o alle medie, fatte con mezzi veramente ancora molto antichi, mi rendo conto che i professori, perché c'è tutta una generazione di professori che non sa quali meravigliosi strumenti ci sono adesso per ravvivare l'attenzione degli studenti, per farli aprire la mente, capito? Adesso dobbiamo pensare a questo aspetto positivo. Bravissimo professore, io condivido pienamente quello che lei ha detto e la ringrazio del contributo. Le auguro una buona serata e un buon weekend, a presto. Grazie a voi. Molto bene, 16:47 minuti, la viabilità riprendiamo tra un minuto. 2024. Gli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione. Non ho detto nel corso della trasmissione di oggi che Google ha annunciato di aver acquistato Waze. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Per il momento l'azienda americana ha detto che l'azienda israeliana, perché Waze è una startup israeliana che ha 47 milioni di utenti in tutto il mondo, rimarrà per il momento una divisione. Quindi Google nella sua sistema di mappe utilizzerà le tecnologie e i dati forniti da Waze, e viceversa Waze utilizzerà i sistemi di ricerca eccetera eccetera di Google. Poi magari fra qualche anno Waze non esisterà più e tutto verrà condensato all'interno di Google. Secondo me va a finire così, giusto Marco? Ma sicuro, certo, però si fa sempre così, si fa un'acquisizione, non tocchiamo niente, poi dopo vai. Però con Waze è successa una cosa che non è mai successa durante le acquisizioni di Google, che il management israeliano ha imposto come clausola nella negoziazione di rimanere in Israele. Questo è un segnale. This is true, bravo. Questo forse avevano fatto i corsi su Docebo, contrattazione. Senti, c'è una cosa interessante, questi corsi, non so se esistono delle legislazioni che in qualche modo toccano la formazione delle aziende, qui esiste? Cioè, quindi questi corsi sono adeguati a questa legislazione? Allora, diciamo che il legislatore si è adeguato allo strumento. Beh, sì, e non è allora, male. In Italia uno dei driver, dunque dei motivi per cui le aziende fanno tanta formazione online, è soprattutto legato alla sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo un caso bellissimo dove per la formazione dell'entrata in un cantiere di una raffineria di petrolio abbiamo interfacciato Docebo con un sistema di badge, dunque di strisciare per poter entrare in raffineria, sì, e sì. Se il dipendente non ha fatto il corso della sicurezza, il cancello non si apre. Dunque questa è una cosa, è un'applicazione che, come dire, dall'internet si va all'internet delle cose, no? E dunque sì, il legislatore ha previsto il fatto che una parte della formazione sul lavoro possa essere fatta online. Dunque si è adeguato allo strumento. Marco, c'è una domanda interessante di un nostro ascoltatore che dice: se un utente di Oil Project vuole proporre una lezione, può trarne profitto economico? Perché allora al momento il progetto prevede che io faccia lezione gratuitamente. Allora giustamente uno potrebbe domandarsi: ma perché io devo fare una lezione gratuita e dietro c'è un'azienda che ci fa soldi? Adesso tu dici, vabbè, soldi, magari guadagniamo. Iniziamo a farli e poi parliamone. Sì. No, è un modello molto interessante che adesso noi ancora non abbracciamo, ma che potremmo abbracciare in futuro. E il sito internazionale che lo fa nel migliore dei modi è forse Udemy. Chiunque può creare il suo corso, stabilisce un prezzo di vendita e poi chiunque lo può comprare e la piattaforma ne trattiene una parte. Un marketplace fondamentalmente. Interessante. Senti, quali sono le altre piattaforme interessanti? interessanti che vogliamo segnalare ai nostri ascoltatori, quelli che, perché sono tutti in inglese la maggior parte, se forse sì, ce ne mi piace segnalarne cinese, due, una addirittura di Harvard e dell'MIT che si chiama EdX, e in particolare la prima lezione del corso di fisica. Io non ne so nulla di fisica, mi aveva abbastanza emozionato. E poi invece all'improvviso, tornando in Italia, a Cesena c'è un sito che è online da pochi mesi che si chiama XlogX, come X per logaritmo di poi X. Mi date i nomi che li metto su Facebook. Che è un sito dove esercitarsi in matematica, e il sistema è intelligente, quindi risolve le nostre equazioni, derivate o quello che è, mostrandoci i passaggi. Interessante. Quindi c'è una parte accademica di ricerca che è stata fatta molto abbastanza rilevante, insomma. Io ho in parte scoperto questo mondo parlando con una persona che ha, non so se 65, 70, 75 anni, e che capisce molto bene l'inglese, ha vissuto molti anni negli Stati Uniti, e quindi questo è sicuramente un vantaggio, ma che ha seguito tantissimi corsi e ha fatto, poi se uno è in pensione c'è anche tempo, ha fatto molti corsi e ha imparato un sacco di cose tramite queste piattaforme. Una nostra ascoltatrice ci chiede se ci sono anche i corsi di inglese, cioè di lingua. Ci sono, sì, non sono ancora eccezionali, ci stiamo lavorando, ma ci sono. Non so quanti minuti abbiamo ancora per la trasmissione. Oh, perfetto. L'ultimo, tornando sul costo della piattaforma, uno paga per utente mese, questo è il modello? Allora, sto tornando a Docebo. Noi abbiamo ricostruito Docebo l'anno scorso e l'abbiamo portata sul cloud, dunque sulla nuvola. Dunque questa tecnologia ci consente di dimensionare il progetto in base ai picchi di traffico. La formazione ha come caratteristica quella di avere dei picchi di traffico. Certo, che è uno dei vantaggi del cloud. Esattamente. Dunque, ad esempio, ci sono alcuni corsi che devono essere fatti entro fine dicembre, e diciamo che il picco ce l'hai tra il 21 dicembre e il Capodanno. Dunque, certo. L'utente può pagare soltanto per quello che realmente consuma, per poi passare al piano più piccolo quando non lo utilizza. Bene. Dunque io ringrazio i nostri ascoltatori, che sicuramente hanno imparato qualche cosa in più, anche io ho imparato molte cose oggi. Grazie a Marco De Rossi, mi unisco agli in bocca al lupo di alcuni dei nostri ascoltatori che hanno scritto in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a tutti. Ecco, grazie, se andate in break even, però ci offri qualcosa alla fine dell'anno, un panettone, qualcosa del genere. Rigorosamente virtuale. Comunque la cosa importante, insomma, è un progetto che è interessante, perché erogare conoscenza è sempre una cosa lodevole. Marco De Rossi, grazie a te, e grazie anche a Claudio Erba, uno dei fondatori di Docebo. A presto, grazie mille. Buon lavoro, grazie a voi. Bene, noi riprendiamo la prossima settimana. Vi ricordo che potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ringrazio Micol che ci ha aiutato oggi in regia, anche grazie a Peter Bescapè, e ringrazio anche Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana in redazione. Oltre al nostro indirizzo di posta elettronica, che vi consiglio di utilizzare come metodo per comunicare con noi, potete utilizzare la pagina di Facebook cercando 2024, oppure anche Twitter. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024.